qualcosa, by un profumo, no? By, sì. Così, With compliments by from a livello di frutta abbiamo della Macedonia. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Attenzione, quindi, i partiti come tanti quindi, bambini. Vabbè. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. C'est lundi, c'est lundi. Lo so, è lunedì, il giorno più lontano dal venerdì. No, perché è ancora vicino al venerdì. Infatti, precedente. Bravo, giusto, vedo giusto. Che hai capito. Scusa, quindi vabbè. Sei sintonizzato anche tu sul lunedì. Ahimè. Allora, i partiti sono nel loro lunedì nero, diciamo, sì. Perché sono stati presi con le dita nella marmellata. Prima la Margherita, adesso la Lega. Aspettiamo analoghe indagini su quei partiti che sono esistiti solo per il tempo di maturare i finanziamenti a fondo perduto. Mi vengono in mente asinelli, campanili, arcobaleni, molti altri simboli. Dovrebbero, sai cosa, tornare un po' tutti questi qua coinvolti, no? Non so, tipo il bambino Lusi, dovrebbero tornare all'asilo. Lusi qui all'asilo andrebbe benissimo. Certo. Basta chiedergli i soldi e lui li dà. Serve una nuova palestra, ci pensa il bambino Lusi, sgancia 2 milioni e siamo a posto. Certo, diventerebbe il nostro bancomat. Ma lui è un bancomat. Tipo anche l'autista del Trota. Sì, lui l'ha proprio detto, io ero il suo bancomat. Ma la professione di bancomat adesso è una delle professioni emergenti, bancomat, no? Sì. Ma ti sei dimenticato di Don Bancomat? Il prete che dava i soldi alla cricca. La cricca, aspetta. Balducci. Mamma mia, sembrano secoli fa. Nemmeno è passato un anno, Drago. E Spino? Chi? Il ragionier Spinelli, quello che dava i soldi alle olgettine, alle Maristels. Quindi hai ragione, fare il bancomat potrebbe essere una professione futuribile. Sì, no? Ma mancano però i corsi di studio e i diplomi conseguenti. Perché allora bisogna correre subito i ripari e dire al ministro Profumo di creare immediatamente dei corsi di formazione per bancomat, tenuti da Lusi, Don Bancomat, Spino e l'autista del Trot. Sembrano tutti nomi di gente della mala. E beh. Sai le canzoni di Milva, quelle robe lì? Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché era il suo mestiere, faceva il trota nella lega di suo padre, faceva il trota perché non sapeva fare altro. E ora bambini, ricreazione. Oh, allora, siamo pronti, cominciamo. E su qua da 3/4 d'ora. Sei arrivato in anticipo. Bravo, stai imparando la lezione scout, la puntualità. No, quella ce l'avevo già. È una roba mia, proprio di intima, no? Ah, ce l'hai intima, ma intendo, ma cosa ti sei fatto, Alberto? Perché? Ti vedo un po'. Ma cosa c'hai in faccia, in fronte, quella botta lì? Cosa ti è successo? Ah, lì, e sono caduto. Ma ci hanno dato i punti? Ci hanno dato i punti? No. Alberto, ma cosa hai fatto? Ma la responsabilità è mia, dopo i miei genitori ti vengono da me, a lamentarsi. Sì, beh, quello è il procedimento giudiziario, gli è stato avviato, cioè. Alberto, ma cosa ti sei. Ma Alberto! Ma cosa ti sei fatto? Mi sono fatto male, sono caduto dall'albero. Sei caduto dall'albero? Sì, non si ricorda! L'albero Dio, la canzone, mi ricordo quella canzone lì, bellissima, no? Quando il mio ultimo giorno verrà, dopo il mio ultimo sguardo sul mondo. È bellissimo, però ma sei caduto dall'albero sul serio o dici così tanto per dire? Ma no, ma cosa crede che mi sono truccato? Mi sono fatto male veramente. E qui porca boia, soccio, ma. E soccio? Ma. Cosa? Qui siamo gli scout, bisogna imparare ad andare sugli alberi, a scavare gli alberi, no? Ma Alberto, ma cosa ti avevo insegnato? Che l'avventura è un concetto solamente per le tigri, per i leoni. Tu sei un fagiano, il fagiano canta, il fagiano ama cantare. Ma Alberto, questo non era nei patti, cioè c'era anche un Depliant che parlava chiaro, no? Ma parlava chiaro cosa, Alberto? Adesso canta con me che c'è già la medicina per risolvere questo problema. Vuoi sentirti meglio? Che ti vedo lì tutto tremolante, tutto tumefatto. E c'è un po' di acqua ossigenata. Pronto? Oh. Sei pronto? Senti che bello. Non sarà un'avventura. Hai già preso 5 punti di sutura. Sei caduto dalla pianta. Sta un po' fermo e canta che ti passerà la voglia di saltare. Adesso Alberto canta con me. Spericolato. Non sarò più. Sembro un fagiano. Dentro un igloo. Perché a me piace Vanessa. E chi è Vanessa? E lei non lo sa. E no, sono anch'io chi è. Forse cantando mi Mi noterò. Premesso che Vanessa piace anche a me. Ma mi noterò a chi? A lei o a me? Cioè, non ho capito. Eh no, ma questa era la tua parte, Ma quale parte? Rimasti all'albero, sono caduto all'albero, devi insegnarmi ad arrampicare, no? A mettermi in sicurezza. E invece ti ho insegnato a cantare, perché gli scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà. Quando stai arrampicando, che non sai cosa fare, come il punto critico, no? Il passaggio criptico, allora a quel punto te cosa fai? Intoni una bella canzone, spericolato, non sarò più fagiano dentro un igloo. Sto per precipitare nel vuoto e cantano, cioè questo è l'insegnamento. No, questo poi sono tutte cose che noi prendiamo nota, no? I miei genitori, io la sera dico cosa ho imparato. Ma poi ti guardano e ti vedono lì che sei caduto, che c'è un braccio rotto, la gamba storta, la testa spaccata, e poi mi danno la colpa a me. Se stavi qui e cantavi insieme a me, allora lo vedi quel falco? Se non mi cantavo, allora andavo a fare lo zecchino d'oro, no? Cosa c'entra? Io sono qua per fare l'avventura, per lo scout, no? Lo scout è quello lì, quello dell'avventura. Lo scout è quello dell'avventura, che però fa rima con sutura. E se la tua avventura fa rima con sutura, c'è qualcosa che non funziona bene. Cosa ce l'hai insegnato? L'avventura vera, quella del falco, no? Un falco volava nel cielo un mattino. Ricordo quel giorno quando ero bambino. Io lo seguivo nel rosso tramonto. Dall'alto di un monte vedevo il suo mondo. Allora scusi, mi dà retta o no? Certo che ti do retta, ma perché stiamo perdendo un po' la Trebisonda? Cioè, la Trebisonda? Cioè, non potevo tornare a bomba, cioè, facciamo la lezione, no? Che lezione vuoi fare? E poi a casa stasera, nelle ore libere, lei canta, no? Qui facciamo lezione di scout, no? Facciamo lezione di scout? Allora, questo albero, devo prendere dei morsetti, cioè, allora, come si fa? Quando il mio ultimo giorno verrà, il suo è magari anche dopo presto, cioè. Il mio ultimo sguardo sul mondo. Senta, non intanto, voglio pietà, ormai è finita, tanto su vado questo io, no? Mio corpo, capito? Perché è pesante. E poi ci vediamo magari tutto a caso, mi magari anche la terza lezione, ma non è detto. Cercate un albero giovane e forte. E ora, bambini, e tutti a casa. Guarda quante macchine. Tutto chilometro zero. Pure Marchionne ha detto che... Ma basta, no, Marchionne. Ha detto che Marchionne è stato pessimista, no? Ha detto che si venderanno più o meno il numero di macchine che si vendevano nell'87 o nel 97, adesso non ricordo, però insomma in epoche lontane. Ma è lui che le deve vendere, si venderanno, mica noi, chi se ne frega, scusa. Infatti noi dovremmo comprarle le macchine. Sì, con che soldi? Questo è il problema. Che poi certo non comprerei una Fiat o una Chrysler. Perché? Ma perché? Ma insomma, io lo sai, io di macchine, insomma. Cosa? Nel senso che io di macchine ne so, insomma, Si compri tutte prima le di scegliere una macchina, io devo pensarci bene, devo pensarci bene. Capito? Bene. E quindi insomma, bene. Se poi pensi bene, ti viene anche in mente la faccia di Marchionne. No, vabbè, ma è perché sei snob. Ma che snob? Lì. Piuttosto di aiutare l'economia nazionale, prenderesti qualche modello coreano mai sentito, elettrico, senza cambio, senza chiavino d'accensione, regolato da comandi vocali. Ma quale strano. Economia e quale nazionale? E poi comprare un'auto adesso è una missione impossibile, fidati. Impossibile. È inutile perfino sognarla. Qui le possiamo guardare che passano, basta quello. Guarda che è proprio questo che Marchionne teme di più, Ma cosa? Questo disfattismo. Ma non è disfattismo, e poi Marchionne mica teme il disfattismo, lui teme i sindacati. È un uomo d'altri tempi lui, no? Ha rispolverato tutta la vecchia contrapposizione tra padroni e operai, e lui insomma la incarna alla perfezione, con la barba. I neomarxisti guardano maglione. Marchionne con grandi speranze, i neomarxisti, perché i neomarxisti, grazie alle sue politiche, lui potrebbe far rinascere il Partito Comunista in ogni nazione in cui ha sede una sua azienda. E certo, con la barba. E quindi la grande speranza rossa è lui, capito? Certo, ad avvenire Marchionne. Con la barba e la sciarpa. La sciarba e la parpa.